solo scimmie scure fra le bianche strade. Imitate qualsiasi cosa incontrate. Coprite di quattrini i vostri servi. Urlate dandoli scannarsi. Piccola comunità deviante, fatta di incesti, d'emozioni e di gambe sporche, di fango, sangue e tradimenti. Piccoli segreti chiusi fra i pochi denti, illusi da quei sorrisi che ci fanno star tranquilli, ma dietro voi vedo già, forse per l'eternità, anime in affitto, in fuga da genomi di soppiatto che abbracciano il destino. Di ogni nuovo nato, sbattendogli in faccia il suo futuro, in cerca di un motivo dove la libertà è un concetto sovversivo, dove l'abilità dei vinti ci logora nei secoli. Tendiamo limiti morali al potere e lo accusiamo d'usi e abusi tutt'altro che umani. Ma l'unica colpa è quella di farsi vincere dai pochi versi, dai pochi resti, pochi versi.